GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. Il moto mondiale riparte così come era finito, col dominio di Casey Stoner e della Ducati. Nella gara in notturna a Losail, in Qatar, vittoria dell'australiano davanti agli spagnoli Lorenzo e Pedrosa. Ma a sorprendere è Andrea Dovizioso, 20 anni, quarto, che relega Valentino Rossi in quinta posizione. Sentiamolo a Italia 1. Ma sono lacrime agli occhi e non so perché. È stato troppo bello, forse per un po' di sofferenze. Battere Valentino è bello, prima gara. Non so perché, sono in questo stato d'animo. Bello, sono contentissimo. In 250, successo di Mattia Pasini tra le 125 dello spagnolo Gadea. Per il calcio, nella 27esima di Serie A, la Roma vince in trasferta a Napoli per 2-0, gol di Perrotta e Totti sul rigore e tiene il passo della capolista Inter. Il tecnico giallorosso Spalletti a Sky Sport. I miei ragazzi sono entrati in campo benissimo e hanno messo la partita in discesa facendo subito quel gran gol di Perrotta. Sono punti pesanti questi perché abbiamo trovato davanti un Napoli fortissimo dal mio punto di vista. Si infiamma la lotta per il terzo e il quarto posto, che vogliono dire Champions League. La Juventus torna al successo in trasferta col Genoa, 2-0 coi gol di Grigera e Trezeguet. Ranieri. Devo dire che i ragazzi hanno fatto veramente una buona partita, sono partiti subito con il piglio giusto della grande squadra che vuole il risultato. Magari ci ho messo 8 mesi a capire che Grigera è un buon terzino sinistro, però va bene così. La Fiorentina cade invece a Siena per 1-0, mentre si fa sotto il Milan Corsaro a Empoli per 3-1. In rete Pato, Ambrosini e Kakà. Carlo Ancelotti. Per quello che era successo in settimana, per la sconfitta contro l'Arsenal, occorreva una reazione, soprattutto da un punto di vista di risultato. La reazione c'è stata e adesso credo che le cose miglioreranno per noi. Gli altri risultati: Catania-Cagliari 2-1, Lazio-Livorno 2-0, Parma-Sampdoria 1-2, Torino-Atalanta 1-0. E ora il rugby col capo dell'Italia a Parigi. Dopo il rovescio di Cardiff, l'Italia, impegnata in casa della Francia, torna alle battute d'arresto onorevoli, in grado di lasciare più rimpianti che sconforto. Finisce 25-13, primo tempo 13-6 per i transalpini. Parisse e compagni nella prima frazione hanno tenuto bene, subendo solo una meta in seguito a una giocata spettacolare finalizzata da Flock. Nella ripresa il tracollo è parso vicino dopo la seconda meta dei galletti firmata Josion, ma l'Italia era sempre più convincente in mischia e replicava con Castro Giovanni sulla spinta di tutto il pacchetto. Mancavano poco più di 20 minuti e c'erano solo 5 punti da recuperare. I tre quarti di casa però riuscivano ad andare in mezzo ai pali con Ruggeri. L'Italia premeva inutilmente per almeno 5 minuti, rendendosi pericolosa sì, ma senza aggiungere punti al tabellino. Giacomo Bagnasco, GR24, Il Sole 24 Ore. Per lo sci fa finalmente festa Manfred Mölgg, che dopo tanti secondi posti a Kranjska-Gora vince lo slalom speciale, primo successo in carriera in Coppa del Mondo. L'azzurro a Radio 24. Sono molto soddisfatto, è stata una gran gara, entusiasmo alle stelle, per quello sono molto contento. La pressione si vede mi ha dato abbastanza calma, ecco, di ragionare bene, di attaccare. L'ho cercata e l'ho trovata sta vittoria. Per il basket, nella nona di ritorno, la capolista Siena batte la Virtus Bologna. Vittoria anche per Roma, che batte Avellino nel big match, e Montegranaro, Milano, Biella, Rieti e Capodorlando. Nona di ritorno anche nel campionato di pallavolo, la capolista Trento supera 3-1 Macerata. Treviso batte 3-0 Roma. Vittoria al tie-break per Milano, Piacenza, Cuneo e Latina. Stasera Modena-Padova. E chiudiamo con l'atletica. Italia senza medaglia ai mondiali indoor di Valencia. Quarto posto per Donato nel triplo. Record mondiale oro per la russa Soboleva sui 1500 metri. Vi ricordo alle 14 l'appuntamento con A Tempo di Sport. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.